Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Ha vinto il primo Clima House Startup Award. Si chiama Nova Somore, una startup naturalmente che è stata premiata per aver messo a punto quella che viene chiamata un'eliopompa, cioè una pompa dell'acqua sostanzialmente che funziona con il calore del sole, senza energia elettrica. Ne parliamo con Giordano Mancini, che è responsabile strategia e sviluppo di Nova Somore. Benvenuto, buonasera. Buonasera. Senta, allora, come funziona intanto questa eliopompa? Quindi serve per tirare su l'acqua da sottoterra, no? Questo apparecchio, ma non usa l'energia elettrica. Come funziona? Allora, è un sistema termodinamico semplicissimo. In pratica è una specie di macchina a vapore, solo che il vapore non è d'acqua, ma è di un gas volatile. Noi abbiamo il calore prodotto dal sole che fa espandere il gas in un cilindro, come un comune cilindro di una macchina a vapore, e poi l'acqua che sale dal pozzo incontra il gas prima di essere utilizzata e quindi lo raffredda di nuovo in un ciclo chiuso. In questo modo abbiamo un ciclo continuo di energia. Ecco, voi avete dei pannelli solari un po' come quelli che si mettono sui tetti della casa, per capirsi, per fare l'acqua calda. Con questi pannelli voi raccogliete il calore della luce solare, che è quello che mette in moto tutta questa macchina che ci stava raccontando. Esatto, giusto? Sono esattamente gli stessi pannelli che sono sui tetti delle case. Noi abbiamo bisogno di acqua calda a circa 60-70 gradi. Con quel calore possiamo già movimentare la macchina. Ecco, intanto c'è una storia dietro a questo vostro lavoro. È proprio il caso di parlare di storia in questo caso? Sì, direi proprio di sì. Noi abbiamo brevettato, perché l'abbiamo completamente rinnovata, una macchina che si chiamava Helio Dynamic e che fu inventata da un geniale italiano che si chiamava Daniele Gasperini in Libia nel 1935, quando la Libia era una colonia italiana. La presentò in fiera, vinse molti premi perché era una perfetta macchina autarchica. E lui era un frigorista, quindi faceva macchine enormi per il ghiaccio ed ebbe l'idea di invertire il ciclo. Cioè, anziché usare un motore per fare un ciclo termodinamico, usare un ciclo termodinamico per fare un motore. Per fare un motore, certo. E far funzionare appunto questa pompa. Possiamo immaginare, in Libia il sole certamente non manca, l'acqua c'è, ma bisogna andare a tirarla su da sottoterra. Ecco, senta, ma visto che il sole resta comunque una fonte di energia non programmabile, che cosa succede se, per esempio, viene a mancare per qualche giorno? Immagino che vi siate posti il problema. Noi ce lo siamo posti assolutamente, specialmente per i paesi della fascia tropicale del pianeta. Bisogna che l'acqua sia sempre a disposizione dell'utente, per cui abbiamo possibilità di accumulare l'acqua. L'acqua è molto più facile da accumulare di altri. E soprattutto dell'energia elettrica, no? Se uno volesse metterla da parte per poi farci andare delle pompe elettriche, sarebbe complicatissimo. Esatto, in più noi possiamo anche andare con la biomassa. In molti paesi tropicali come Cuba, ma anche l'Africa, hanno molta biomassa disponibile. Noi con un bollitore possiamo fare acqua calda che fa andare comunque la macchina. E infine abbiamo sempre un dispositivo manuale che, oltre che l'avviamento, serve per le emergenze, in modo che si possa pompare acqua in qualunque istante, anche di notte, manualmente. Senta, oltre a questa applicazione, diciamo, della pompa, forse per irrigazione, no? Immagino che questa sia una delle prime applicazioni a cui state pensando. Quali possono essere ulteriori applicazioni di questi sistemi, di queste architetture? Sì, come pompa idraulica, oltre che per irrigare, posso dire per allevamenti, acquacoltura, anche negli edifici per far circolare l'acqua di riscaldamenti. Invece altre applicazioni che stiamo progettando sono la dissalazione dell'acqua, avendo superfici fredde che possiamo realizzare grazie al gas che c'è dentro il motore, che è lo stesso dei frigoriferi, possiamo facilmente condensare l'acqua. Possiamo fare anche condizionamento e soprattutto abbiamo in mente un programma, ma questo di lungo periodo, per l'ecologia a bordo delle barche. Avendo sempre la fonte fredda che è il mare, possiamo recuperare parecchi cavalli dal motore di bordo per fare efficienza energetica, per fare il ghiaccio, condizionamento dell'aria e tante altre cose. Insomma, è un mondo intero che si apre. Ecco, dal punto di vista dello sviluppo imprenditoriale, a che punto siete? Siete una startup giovane voi? Sì, la startup c'ha poco più di 2 anni e quindi abbiamo usato questi 2 anni, realizzando anche un equity crowdfunding per poter recuperare risorse, per sviluppare intanto la pompa e il motore. Il motore l'abbiamo, come dicevo, brevettato e ora siamo in grado di applicarlo su tante cose. Siamo all'inizio e abbiamo fatto una serie di prototipi che sono già stati installati in Africa alcuni e altri in Italia, e piano piano abbiamo molte richieste da tutto il mondo. Adesso cominciamo a ricevere gli ordini e speriamo, insomma, di avere il successo commerciale anche che poi serve per andare avanti. Grazie Giordano Mancini, in bocca al lupo. Va bene, grazie mille. È tutto anche per questa sera. Prima di lasciarci vi ricordo che potete seguirci anche via podcast, naturalmente dalle pagine del sito di Radio 24, e che potete scriverci a smartcity@radio24.it. Da Maurizio Melis, buona serata a voi tutti.